Carissimi amici di Runtime, stiamo per entrare, sta per iniziare Everything, questo appuntamento questa sera dove praticamente parleremo un po' di insomma di CPCM, ma soprattutto parleremo anche dei cazzi nostri, come al solito, insomma, come succede spesso e volentieri, insieme a tutta la band o parte della band di Runtime Radio. Ciao Michela. Ciao a tutti. Ah, pensavo che io non dovevo parlare neanche con gli ascoltatori. No, no, attenzione, entrano così in media res, sì, loro che parlano per cazzi loro, chiacchierare dei fatti loro, questa gente. È sempre la cosa più importante in questa prediretta, anche se poi in realtà... Scusate, ma chi siete? Chi siete? E soprattutto, cosa volete? Cosa trasportate? Ok. Un fiorino. C'è qualcuno che respira sul microfono. Michela, noi cominciamo con questa scarsa qualità tecnica. No, vi si sente proprio bene invece. Bene. Anche un po' satanici. Ah, sì, esatto. Va bene, io direi... La mia risata era perché so quanto ci è costato questo sì, ma facciamo i cazzi nostri davanti a tutto il resto del mondo. Va bene, io direi che facciamo partire la sigla così inizia la trasmissione. Che ne dici, Michela? Io dico yes, yes, of course. Ok, allora ragazzi, inizia Everything. Ed eccoci qui, sono passate le 21 da un pochino e siamo arrivati finalmente in diretta. Io sono Simone Pizzi e con me c'è Michela De Paola. Michela De Paola che sta soffiando sul microfono così, come un toro scatenato. Insieme a noi ci sono i nostri carissimi amici di Runtime Radio, ossia Walter Sbano di OGM. Buonasera, bentrovati ragazzi, ciao. Ciao Michela. Ciao Walter. Scusa, ma non so più quello che devo fare, perché qua come mi muovo faccio qualche danno. Ma basta non respirare sul micro. Io ho capito che non devi respirare, il resto non lo so. Ok, vabbè, allora sarò viva alla fine della puntata, insomma, soprattutto. Esatto, c'è anche Carmine Puccio, ovviamente sempre di OGM. Ciao a tutti, ciao. Michela che respira sul microfono. Ciao, esatto, ma ce l'hai, non ci sono creature attaccate al tuo seno questa sera? No, sono in camera da letto con la mamma. Ah, ho capito, ma tra poco arriveranno, insomma. Ma c'è Gianluca? Guarda, buonasera. Eccolo, anche detto il cuciniere dallo spaccio profondo, che questa sera ce lo siamo accataparrato perché c'ha la serata libera o è stato licenziato, non so, una delle due. È vittima del DPCM. Esatto. E quindi siamo qui per parlarne anche con lui. Ci sarà poi più tardi anche Carlo Sant'Agostino, però ancora non è tornato a casa perché ci ha trovato due incidenti sulla strada. Ma sai che c'è? Che la gente doveva provare l'ebbrezza perché Santa viene dalla Lombardia, quindi la Lombardia... anticipiamo cose che già sapete, però la Lombardia verrà chiusa domani, quindi la gente doveva provare l'ebbrezza di spiaccicarsi addosso uno addosso all'altro, perché poi non potranno fare incidenti per lungo tempo, quindi Tu dici domani siamo chiusi tutti dentro, quindi Sì. Tanto salutiamo. Io avrei immaginato invece che sono tutti i terroni che hanno colonizzato Illo Tempore e la Lombardia che stanno tornando di corsa alle rispettive case. No, come diceva il mio amico. Secondo me questo succede. Che lavora nel reparto di rianimazione al Gemelli. E lui mi diceva che c'è stato un effetto apertura e chiusura, in cui praticamente subito prima dell'apertura, della chiusura del lockdown, c'è stata una marea di incidenti. Ma e la gente sembrava. L'apertura o della chiusura? Prima della chiusura. E dopo l'apertura, dopo quando ci hanno aperto le gabbie. Quindi dice forse la gente va nel panico e quindi non controlla più le sue reazioni alla guida, insomma. Bene, allora io vedo zero calcare pure, vi ricordate? Vedo in chat che praticamente ci sono due persone in chat che sono le stesse che stanno in trasmissione con noi, quindi evidentemente questa sera... Io ho spammato un po', speriamo che... Anch'io ho spammato, qualcuno. Vabbè, evidentemente questo tema del DPCM non raccoglie tanto l'attenzione generale. Io inizierei proprio da questo, cioè dal fatto che È un po' in maniera strana, cioè nel senso un po' come se l'Italia non si fosse, non fosse preparata a questa cosa che sarebbe arrivata la seconda ondata. Praticamente il governo reagiva a suon di decreti ogni giorno che aumentavano i casi, cioè nel senso oggi quanti sono? 25? Ah no no, allora decreto. Oggi quanti sono? 27? Ah, oggi decreto. Alla fine hanno detto, sentite, famo una cosa, prova a mettersi d'accordo un po' tutti quanti, che poi alla fine hanno detto che si sono messi d'accordo, poi dopo non gli stava più bene, poi questo, anche di questo parleremo, e si sono messi d'accordo e hanno fatto un decretone generale, che poi alla fine, insomma, è un po' come dire, dobbiamo andare in lockdown, ma proprio, cioè io che so quello che non che ti devo mandare in lockdown, sto a fare del tutto per non mandarti. No, cioè. Ma abbiamo visto che probabilmente il tentativo... Poi lascio la parola anche agli altri, però dato che ho visto un po', ho seguito un po' le vicende del, diciamo così, anche delle Oltralpe e dell'Oltreoceano. E dell'Oltrafford. E in Sud America molti paesi hanno adottato questo sistema di... C'è qualcuno che sta mangiando. Non riesco a scartare il biscotto. Hanno adottato questo sistema del, diciamo così, del lockdown a semaforo, come si dice a Roma, a semaforo, ovvero scusate, coi colori, mi chiedevano se sono in diretta. Salutiamo Giulia che ci sta ascoltando. Brava, la mia migliore amica delle elementari. Quella che non è mai esistita, insomma. E niente, quindi hanno adottato questo sistema di zone semaforo, quindi zona rossa, non ti puoi muovere, i negozi devono chiudere. Ma questo l'abbiamo fatto anche noi alla prima ondata. Cioè, No, non hanno adottato semaforo arancione, rosso, giallo, e poi le zone venivano classificate in base poi all'andamento epidemiologico. E penso che succederà la stessa cosa da noi, anche se io sono sempre pronta al peggio, nel senso che a un certo punto se stuferemo di sto semaforo diventeremo tutti rossi, spero di no, però insomma... Che poi un semaforo a casa mia, e qui andiamo da Walter, a casa mia il semaforo è verde, giallo e rosso. Invece qui il verde hanno levato proprio. Guarda, secondo me è un discorso molto semantico e molto di simbologia. Forse si sono resi conto che il verde dava un segnale troppa speranza, di troppa libertà. Però secondo me, io sono d'accordo quando il Michela dice che andiamo verso il lockdown, e la mia sensazione in questi ultimi giorni si sta sempre più sedimentando su un fatto. È assodato che dovremo andare in lockdown, perché i numeri sono quelli del momento peggiore di marzo-aprile, quindi abbiamo 30.000-35.000 casi al giorno in questo momento, e anche il numero di decessi purtroppo sale. È quella la cosa peggiore, sì. Però probabilmente ci stanno portando, come hanno fatto anche nella prima ondata, ad accettarlo progressivamente, anche perché forse le fonti di... possiamo dire di intelligence, le fonti che stanno analizzando lo stato sociale si sono rese conto che probabilmente in questa seconda ondata il malcontento è maggiore, perché nella prima ondata non era chiaro niente, non capivamo, eravamo spaventati, e questo ci ha in qualche modo portato a chiuderci in casa volontariamente. Per questa seconda ondata le persone disposte a farlo forse sono di meno, e quindi si sta cercando di farci arrivare ad essere tutti in lockdown un po' più alla chetichella, per evitare reazioni esacerbate degli animi. Quindi mi immagino che una o due settimane la cosa che mi è sembrata stranissima è che regioni come la Campania e il Lazio stesso non possano essere, con i numeri attuali, solo gialle. Mi aspettavo un arancione, invece a questo punto la sensazione che ho è che ci faranno arrivare nell'arco di una settimana, 10 giorni, ad arancione, poi eccolo là, magari a fine novembre siamo tutti in zona rossa, se i numeri così non cambiano nel frattempo, ma dubito. De botto, gli fanno divertire la bocca. Che poi secondo me gli hanno fatto il dispetto a De Luca, perché De Luca già voleva zona arancione. Ma De Luca sta nero. Secondo me credo che la volesse proprio rossa. Tendente anche... anche al Granada, diciamo. Probabilmente hanno fatto semplicemente, cioè quello che poi dico sta cosa, poi continuiamo il giro. Secondo me hanno fatto semplicemente un calcolo di densità di popolazione incidenza dei casi. La Campania stanno tutti belli. Credo che nei parametri che scelgono c'è anche la disponibilità di posti letto, che in alcune regioni come la Campania è comunque sottodimensionata rispetto alla popolazione. Però la Campania è zona gialla. quindi lo so, però ti ripeto, vabbè, questo che insomma vabbè. Secondo me allora, è calibrata un po' strana sta intanto cosa. Intanto io basterei all'esponente della zona arancione, perché abbiamo un esponente nella zona arancione. Ma io prima di tutto volevo capire arancione chiaro, però arancione chiaro, ok. Ma io però prima di tutto volevo capire, ma voi, no, c'è tutta questa redistribuzione di regole che poi sono state un po' riaccorpate in questo decreto finale, no? Cioè, ci avete capito qualcosa? Cioè, nel senso... Ma non hai finito il giro, poi dopo andiamo avanti. Ma infatti stavo andando da Puccio e da Gianluca. Perché io lo so che Walter l'ha capito, siamo noi che non capiamo. Io non so un cazzo, io so solo che mi sono messo pratica di fatto in lockdown. Da solo da settimane oramai. Esatto. Per la gioia dei miei assicuratori che voglio salutare, io praticamente non sto muovendo la macchina da settimane. Bravo. Sospendi. No, non ti conviene sospendere se la macchina sta per strada, no, insomma. No, sì, no, infatti. Arrivano no, i vigili. È difficile che io possa provocare incidenti sinistri in questo momento. Ecco. Comunque, a Granata come la Salernitana, giustamente ci dice il buon Lobby Frontali che è in chat. E allora, buon arancino a tutti. Giustamente, allora, anche intanto l'arancio, perché... sentiamo st'arancio che ci dice. Dai, arancio. Puccio. Ah, io non so esattamente le altre zone d'Italia, ma noi fino a stamattina non sapevamo neanche se i bar dovevano essere aperti o chiusi. Noi siamo andati a dormire avanti di sera e non sapevamo oggi che cosa avremmo trovato. Poi abbiamo avuto un po' più di chiarezza, perché addirittura girava la voce: possiamo trovarci una situazione per la quale i locali sono aperti fino alle 18, ma i sindaci hanno il potere di poter imporre soltanto l'asporto o chiudere tutto. Non ci si stava capendo niente. Stamattina c'è stato un minimo di chiarezza venuta più che altro dai giornali locali, in cui per esempio è stato spiegato che gli alimentari resta tutto aperto, tranne i locali tipo i bar e i ristoranti, che potranno fare soltanto servizio a domicilio solo con la zona rossa, solo con la luce rossa, quindi con la proclamazione della zona rossa non possono aprire i bar. Si ritorna praticamente al lockdown di marzo. Sì, la zona rossa è il lockdown di marzo. Bar eccetera fino alle 18 possono stare aperti. Ma per esempio a noi è venuta fuori sta roba, c'era tanto di manifesti stamattina, che da domani in Puglia possono fare solo asporto, sì, e servizio a domicilio. Sì. No, ma poi infatti dopo riassumiamo un po' tutto. Gianluca, invece tu che zona sei? Slide. Io sto in Toscana, quindi per adesso è tranquilla. Per adesso è tranquilla. Quindi sei giallo. Ma questo tranquillo tu come lo vedi? Cioè, nel senso... tranquillo sai come è morto, vero? Esatto. Per modo di dire, anche perché in realtà io... Allora, in Toscana ci sono vari casi e si è capito, c'è stato un aumento per vari giorni, poi c'è stato un calo. Quindi... Però io nella zona dove sto io in realtà è abbastanza tranquilla, perché... cioè, sono tutti paesini, sono campagne, alla fine non è che ci sia molta popolazione, nel senso la provincia di Grosseto è enorme, quindi siamo belli spalmati, diciamo, gli abitanti. E però non lo so, a parte noi dove possiamo stare aperti fino alle 18 come ristorante, e la sera si può fare l'asporto, ma per adesso non ha molto senso, perché le persone non sono molto propense in realtà né ad andare al ristorante né a prendere l'asporto o a consegnare a domicilio per adesso. Cioè tu dici ok, non venire al ristorante, allora la gente dice non si fida neanche da farselo portare a casa, quindi. No, forse che non si rassegnano ancora, forse intende quello. Sì, non lo so sinceramente se non vogliono rassegnarsi o non lo so, devo essere sincero. Per adesso non c'è questa grande affluenza a pranzo, diciamo, nei ristoranti, e la sera non c'è asporto, tanto che noi siamo chiusi, penso apriremo da sabato solo per fare il sabato sera come asporto e consegna a domicilio. E ricominci col sushi. Che fatica. Però altri ristoranti che sappiamo, cioè che conosciamo comunque, perché si parla con altri ristoratori, e ci sono ristoranti che stanno messi molto peggio di noi come servizio del pranzo, e comunque noi a lavorare stiamo lavoricchiando, comunque 15-20 persone si fanno, quindi Però a questo punto partiamo un attimo da una cosa, così facciamo il giro tutti quanti, perché ovviamente senza far nomi e cognomi, perché abbiamo pure un ristoratore, quindi c'è la categoria, mantiamo, appunto, manteniamo un po' la privacy in generale. Partiamo dalla nostra percezione, prima di parlare proprio del decreto e di tutto quanto. Cioè, io quello che ho notato è che un po', allora, perché noi vediamo quelli che sono le azioni politiche e la reazione della gente, no? Che un po' si sono un po' tutti adirati, sono chi non è contento, chi e via dicendo. Però cerchiamo di capire un attimo quello che vediamo noi intorno, no? Cioè, nel senso, noi, per esempio, se io parlo da me e Michela, noi già conosciamo due persone direttamente positive e una sospetta di essere positivo. Quindi c'è un po' il cerchio si stringe, no? Da questo punto di vista, Michela. Eh sì, sì, diciamo che le persone che conosco io direttamente positive forse sono più di due in realtà. Sì, però, no, io dico che c'ha, che potenzialmente sì, ci puoi avere avuto contatti. Però comunque diciamo, da cui è scatenato il contatto, sì, che uno dei due casualmente, cioè noi ci dovevamo incontrare, andare a un appuntamento insieme di lavoro. Saremmo morti. Casualmente questo appuntamento è saltato, grazie al cielo, perché poi noi non contenti dovevamo andare in un RSA, quindi figuriamoci, e sempre per lavoro, per fortuna è saltato tutto e quindi non c'ho avuto il contatto diretto, quindi io ho avuto il contatto indiretto con la persona che lavora con questa persona. E Martellone l'altro direbbe bucio de culo, bucio de culo. La, sì, infatti, perché sennò mi sarei fatta, sicuramente mi sarei fatta il COVID, perché con la facilità con cui si è presa. Ah, te fai il COVID, ah, brava, sì, brava, vedi. Ma sei una donna sposata, Michele, esatto. Che cavolo. Vabbè, ma noi siamo rispetto, de larghe c'è verdure. C'è anche tuo marito presente. De larghe verdure, verdure. Verdure, insomma, e poi il mio commercialista è il COVID, quindi insomma. Ecco, no, il punto, abbiamo detto, non diciamo nomi e cognomi. Vabbè, ma io ho detto chi è il commercialista. No, no, vabbè, però insomma, sempre. Anzi, lo salutiamo, perché comunque è una persona. Ciao, molto, Mario. Molto, no, molto. Disponibile sempre, sì, veramente una brava persona, facciamo il tifo per lui, ma facciamo il tifo anche per l'altra persona. Non so se sono l'unica che parla sempre bene del suo commercialista, ma io no bravo, bravo. Comunque facciamo gli auguri anche all'altro collega, insomma, che, sì, che alla fine e poi sappiamo, insomma, che c'è un'altra situazione, questa molto più diretta, diciamo tra virgolette, che è in sospetto, quindi è intanto in isolamento preventivo, perché ha partecipato a una riunione con delle persone, due persone in particolare che erano sì, siero positive, pensa come stavamo messi. Quindi insomma, l'alone viola. Esatto, e beh, perché sono rimembranze. E quindi questo ci porta al fatto che un po' il cerchio si stringe, Walter. Ma sì, l'abbiamo detto credo anche su GM nelle settimane scorse, la sensazione di ognuno di noi che questa volta il cerchio si stia stringendo è evidente. Anch'io ho avuto un caso molto vicino, un socio, che tra l'altro, buon per lui, oggi ha avuto i risultati del tampone che ha fatto l'altro giorno ed è uscito negativo, ma in realtà è perché sono passati diversi giorni da quando non è stato bene, ha avuto i sintomi eccetera, è abbastanza palese che il suo sia una negativizzazione e non un falso allarme, perché la sua compagna e tutta la famiglia di lei sono positivi, quindi e lui ha avuto dei diciamo sintomi, che lui quindi è stato positivo ed è guarito, cioè. Esatto, farà il sierologico per capire se ha gli anticorpi, però insomma la sostanza delle cose è che lui lo è stato, e noi soci che condividiamo in un totale di quattro persone la stessa stanza in ufficio, col senno di poi ce la siamo vista brutta. È vero che eravamo quasi in smart working totale già da molti giorni prima che lui avesse sintomi, e fatto sta che insomma l'abbiamo scampata, l'ho raccontato credo anche questo in OGM, abbiamo comunque fatto di nostra libera iniziativa il tampone molecolare rapido quando lui ci ha detto che c'era questo rischio, con il quale, con un indice di affidabilità relativo, però comunque ci aveva in qualche modo tranquillizzato. Adesso ormai siamo fuori dal periodo di rischio, dalla finestra di rischio, perché non lo vediamo da più di due settimane. E diciamo che ecco, questa volta ci ha detto bene, però consci di questo, abbiamo accettato di buon grado praticamente di rimetterci in lockdown e credo che andremo avanti così per un bel pezzo. Ok, Buccio, invece tu sei circondato? No. Circondato no, però diciamo che il fulmine ha colpito vicino, nel senso che in Puglia io ho mio padre che mi ha appena chiamato per dirmi che ha fatto il tampone ed è negativo, Sta cosa, se non fosse un dramma, farebbe anche ridere, perché facendo il lavoro che fa il medico in clinica, è in pensione ma continua a lavorare in una clinica privata perché le pazienti vogliono partorire con lui. Birichino tu padre, quante ne sa, quante ne sa. Perché il discorso ha iniziato 9 mesi fa, mo finisce. Mo finisce. Cioè, ci può sta questa, fa pure ridere, devo dire, tutto sommato. E c'ha ragione. Stavo dicendo, niente, purtroppo la clinica in cui lavora lui è stata funestata da un paio di focolai. Il primo è stato proprio nel suo reparto, una simpatica signora che durante il primo lockdown veniva da Bologna e non disse da dove veniva, ed erano infette sia lei che la mamma che l'aveva accompagnata. Questa cosa si è scoperta a posteriori, vabbè, non l'aveva operata lui, fece il tampone, era negativo. Un altro caso in un plesso vicino, dove fanno riabilitazione per chi ha subito interventi chirurgici inabilitanti, e anche in quel caso è stato preoccupato qualche giorno, ha fatto il tampone, negativo. Adesso è stato positivo un suo collega, con cui lui qualche contatto in realtà l'aveva avuto, si è barricato in casa, si è fatto per l'ennesima volta il tampone ed è negativo di nuovo. Mia madre gli ha detto che va in pensione o chiede il divorzio. Quindi, beh, anche cioè, giusto, c'è anche ragione. Trovano cura per il Covid. No, cioè, sì, soprattutto. Ma voi state lavorando in smart working? Noi ci stiamo facendo un sacco di risate perché c'è mia figlia che praticamente dice che vediamo il nonno 2 settimane sì e 2 settimane no. Però davvero anche lui potrebbe mettersi in regime di smart working con una webcam, qualcosa, crea sì, una sorta di... No, quello è Pornhub però, ragazzi. Sì, vi dico solo che mio padre è uscito dal tunnel del videoregistratore solo pochi anni fa. Ah, ok, sì, a posto. Un po' così. Grande. Gianluca. Guarda che ve l'ho raccontato, che un amico che aveva fatto una visita da lui ha detto: fantastico tuo padre, però sai, ancora dalle videocassette delle ecografie. Questo era 2015. Okay. Io pensavo, oppure i CD-ROM col JPEG. Abbiamo comprato il letto, mi immagino una paziente, mi immagino sta scena di una paziente, diciamo, giovane che va a fare una visita ginecologica, fa un'ecografia, che so, 17, 18, 20 anni, gli dà sta videocassetta e fa la fine del Kids React, no? Guarda questo oggetto, cioè, che ci devo fare? Ma lo devo mettere dentro? Ok, sentiamo anche Gianluca come intorno a sé, se ci sono situazioni. No, intorno, io non conosco nessuno personalmente che ha contratto il Covid, ho un cugino, ma è a Napoli, nel senso, non lontano, quindi... però non ha avuto la febbre un giorno, basta, non ha più avuto sintomi. Qua nel comune, da quello che so io, sono 27 le persone contagiate, di cui 2 in terapia, cioè 2 all'ospedale, ma non so se in terapia intensiva, non penso, che qua non c'è. Quindi. Gianluca, 27 su una popolazione di 15.000. Perché per esempio molto rotondo sfioriamo i 100 casi in questi giorni su 40. Siamo 186 casi, sì. Ieri ha parlato il sindaco, erano persi tipo un'ottantina di... Sì, esatto. No, ha ammesso candidamente che si erano persi 80 più di 80 casi. Si era persa tipo un'ottantina dei reperti, quindi... Però non vaccinate, però l'hanno ritrovati. Non vaccinate, perché adesso il numero salirà di botto. Infatti è stato boom. State tranquilli, ma tutto a posto. È stato fantastico. Ma questi erano in isolamento fiduciario comunque. Sì, ma non erano stati refertati e quindi non erano stati conteggiati. No, vabbè, però sai, l'importante... Io credo che a loro gli sia cambiato poco, no? Di fatto. Non ti puoi muovere fino a esito, sì. Quindi... Sì, no. No, infatti io penso che a loro gli sia cambiato veramente poco, nel senso che comunque probabilmente erano già in isolamento. Il problema, no? È che la stessa cosa è successa a Tivoli, a Guidonia, e una cittadina, quanto saranno di popolazione a Guidonia? Penso Guidonia è grandicella. 50.000 abitanti, stanno già a 600. No, ma infatti, contagi. Ritornando anche a Gianluca. 90.000 a Guidonia, te lo confermo. Ritornando un attimo a Gianluca, cioè la realtà, le realtà più piccole, no? con minore densità anche di traffico, di circolazione, roba del genere, vengono meno impattate da questo punto di vista. Quindi se poi avevi un po' la percezione in certe realtà che sto Covid poi alla fine non sia poi tutta sta grossa minaccia, dicevo, io qui non vedo nessuno, no? Sì, nel senso, più o meno la popolazione qua l'ha vissuta abbastanza così, nel senso, non ti ho detto, vi raccontavo che già durante il lockdown comunque c'era gente che usciva, c'era gente che aveva fatto feste a casa, cioè, perché comunque non percepiva. E ora la maggior parte delle persone c'è la mascherina, fortunatamente. E è già qualcosa, no? Anche se comunque... Come? È già qualcosa, dire. Beh, già dovrebbero avere tutti la qualcosa. Mascherina, in realtà. Anche se tipo prima ho portato i cani fuori, dicevo anche in chat che praticamente sto fatto che i ragazzini, 13, 14 anni, 15 anni, alla fine sono sempre per strada, senza mascherina, sempre vicini. E fortunatamente qualcuno ha cominciato a fotografarli e a postarlo anche su Facebook, ovviamente oscurando di sé tutto, facendo notare al sindaco che comunque c'è questa situazione, però non so chi dovrebbe vigilare, sinceramente, a parte i genitori che li mandano comunque per strada, quindi non lo so. Beh, dovrebbe vigilare i genitori sicuramente, perché per esempio Michela e Walter probabilmente lo sanno, cioè il sindaco di Monterotondo è molto attivo da questo punto di vista, cioè ogni tanto Pia chiama i carabinieri per sfollare la piazzetta, perché se no gli danno retta, i carabinieri di Monterotondo che nel frattempo non si sa che fanno, perché c'è sempre sta cosa, aspettano, no? Che il sindaco li chiama, ok, vabbè, a posto. Ah, ma ci ha chiamato il sindaco, no, vabbè, allora. Diciamo che il sindaco poi è molto giovane, è molto giovane, ma poi è stato ieri, ha parlato e ha parlato anche molto pazientemente. Sì, devo dire che mi è piaciuto anche, io avrei sbroccato alla terza domanda, cioè perché... oggi ha deciso di chiude anche i parchi alle 18, chiuderà tutto, perché comunque parchi, piazze, perché non sentono, i genitori li mandano in giro, e quindi lui dice io più di questo... Sai qual è il problema, Michela? Che secondo me anche a livello di governo centrale si fa molto difetto a far passare il messaggio più importante, che poi aiuterebbe anche a far capire che certe misure non vogliono danneggiare determinate categorie... No. Del commercio. Il concetto è: la gente deve rimanere a casa, non perché ci piace non fargli spendere i soldi nei locali, ma perché il virus circola a ciccicula sulle persone. Se le persone vanno in giro, portano in giro il virus, e questa cosa secondo me il governo non la spiega abbastanza, la devi spiegare come se fossimo tutti un branco di deficienti, che del resto siamo, evidentemente siamo, tutti, certo. I giorni ce la devi dire tutti i giorni. No, ma infatti sta cosa è un po' inquietante, perché, cioè, nel senso, io penso che dovrebbe essere anche una cosa logica, no? Cioè, nel senso, una persona dovrebbe capire, no, che un intervento di un governo non può essere autolesionista, no? Distruggere alcuni settori commerciali significa anche danneggiare lo Stato stesso, no? Cioè, qui c'è un problema che è oggettivo e che prescinde dal fatto che tu vuoi stare aperto o no. Cioè, c'è un'emergenza, è come l'uragano, no? Cioè, c'è l'uragano, stato d'emergenza, dovete stare a casa. Non è facoltativo, non deve essere neanche facoltativo. Invece noi, forse secondo me, il grande errore sta nel fatto che no, dovete stare a casa al vostro buon cuore. E questa è la stronzata, perché se arriva l'uragano non è al vostro buon cuore. E secondo c'è me, da se dire, uno... Simone, che è qualcosa che ci accomuna praticamente tutti gli stati del mondo, perché a parte pochi giri di vite di queste ultime settimane, la linea che stanno adottando praticamente in tutto il mondo è la stessa. Sì. Questa cosa è un po'... A parte l'America che sta un po' allo sbaraglio, però... Vabbè l'America ancora è, caso... è preda del negazionismo assoluto, in America ancora però non hanno Europa, capito. In Europa, a parte la Svezia, credo che in Svezia ancora continuano con sta storia del... Fate come vi pare, li riaprite tutto, hanno riaperto i teatri, hanno riaperto i vari posti. Sì, gli svezzesi sono un po' strani, da questo punto di vista, sempre considerati un popolo illuminato, sì. E invece, vabbè. Invece il popolo suicida, che comunque ci stanno molti suicidi in Svezia, cioè questo... abbastanza. Però noi ritorniamo un po' a quella trasmissione che facemmo sempre di Everything quando ci fu la prima ondata, no? Cioè il fatto che non continuo a sostenere che secondo me non esiste un protocollo globale per una situazione come questa, cioè, ma nel senso, un protocollo condiviso da tutti gli stati, dove questo stato d'emergenza presuppone un certo tipo di comportamento. Ci sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non hanno valore di legge, sono... Esatto, così. Il problema è questo, che ci sono troppi organismi che fondamentalmente non hanno un'autorità che da poter imporre. Possono dare delle linee guida, dei consigli, ma poi nessuno è tenuto a seguirli veramente. Se non li segui non vieni sanzionato in nessun modo. Quindi è così, al vostro, diceva Simone prima, al vostro buon cuore. Gianluca, tu che per esempio, vabbè, al di là della preoccupazione economica, no, che poi dopo l'affronteremo, cioè nel senso, mettiamola un attimo da parte questa cosa. Cioè tu oggettivamente, tu, la tua famiglia, no, quindi anche la tua compagna, siete preoccupati comunque di questa situazione? Per il contagio, dici, in generale? Sì, sì, per il Covid proprio, cioè nel senso, questa pandemia. Quindi quelle che possono essere anche le relative conseguenze, no? Dico, al di là del fattore economico, stavo parlando proprio della questione proprio personale. Sì, sì, sì, ma infatti noi saremo per il lockdown, cioè secondo noi era meglio chiudere subito, sinceramente, e non farlo a pezzi, sinceramente. Anche perché, ti ho detto, se comunque la gente continua a comportarsi in questo modo, i contagi aumenteranno comunque, e quando andremo in lockdown comunque ci saranno molti più contagiati, molte più vittime, quindi non ha molto senso, sinceramente. Siccome è andata così come è andata, perché si sapeva che sarebbe tornata questa seconda ondata, alla fine nessuno, diciamo, ha fatto niente per munirsi, diciamo, per organizzare la situazione, affrontarla in modo diverso, sarebbe molto meglio, secondo me, chiudere subito e aspettare sto mese per vedere se i contagi calano, perché altrimenti le persone comunque continuano a uscire, perché se alla fine i ristoranti sono chiusi, i bar sono chiusi, va bene, non per fare l'aperitivo, ma comunque a casa ci puoi stare con gli amici, con i parenti, a bere, a fare festa, è la stessa cosa alla fine, non cambia niente. Beh, io qui poi voglio... Certo. Parto un attimo da Michela e da Walter, poi Puccio e poi ovviamente Gianluca. C'ho la percezione che però in realtà effettivamente, al di là delle grosse proteste, no, quindi negazionisti, tutte quelle cose di cui non parleremo in questa specifica occasione, però è vero che secondo me ci sono delle regioni, quindi ci sono delle aree che si comportano meglio di altre aree, perché noi per esempio l'altro giorno, Michela, magari puoi raccontare bene tu, ma in generale comunque andando in giro, già domenica per esempio non c'era nessuno in giro. No. Cioè nel senso proprio c'era... Ma domenica noi siamo usciti. Siamo usciti noi domenica, sì. O era sabato, non mi ricordo, però siamo usciti, a pranzo siamo usciti. Ah, siamo usciti a domenica a pranzo, è vero, siamo usciti, sì, a pranzo, e giusto per prendere un po' d'aria, e ci siamo messi fuori al terrazzo, e veramente sì, sembrava che comunque, per esempio, c'erano genitori con i bambini, ma tutte persone, cioè tutti al parchetto, ma tutti comunque molto diligenti, anche i bambini stessi, insomma. Ovviamente è normale che i bambini si toccano tra di loro, eccetera, ma tenevano tutti la mascherina. E quindi, no, io, cioè, la maggior parte delle persone, non posso dire che la maggior parte delle persone si comporta bene, però comunque vedo una tendenza al cercare di rispettare le regole il più possibile. Poi, certo... Raga, io ho una partita IVA, cioè come penso tutti, e non ci fa piacere se ci chiudono e se rimaniamo fermi, però cerchiamo tutti quanti di fare quello che ci dicono il più possibile, insomma, di rispettare il più possibile le regole anche per la nostra incolumità, perché comunque ammalarci ci porterebbe poi a tutta una serie di conseguenze umane ed economiche. Bene, e Walter, vabbè, tu dici, io mi sono messo in lockdown già da un pezzo, dici, è difficile che mi affaccio fuori, però secondo te c'è meno circolazione in generale da noi? Guarda, io credo di poterti dare comunque un dato interessante, appunto, se da una parte è vero che sto limitando le uscite al minimo e non ho percezioni da questo punto di vista, però dall'altro ho la fortuna, se vogliamo dire così, di abitare all'incrocio proprio con Via Salaria, quindi con una consolare molto trafficata, e quindi soprattutto negli orari di punta, quindi la mattina presto e il pomeriggio tardi, e devo dire che percepisco, soprattutto nelle prime ore della mattina, un maggiore silenzio, e se, anche se solo scendo dietro il cortile di casa a buttare le immondizie, mi rendo conto immediatamente, anche solo acusticamente, poi mi affaccio sulla salaria e lo vedo, del fatto che comunque c'è meno gente in giro rispetto a quello che dovrebbe essere un novembre, una giornata di novembre normale. Quindi sicuramente un po' meno gente in giro, cioè, vuoi perché si incentiva lo smart working, vuoi perché si fa didattica a distanza, ma comunque gira meno gente. Eh sì, perché secondo me, Puccio, non so se possiamo essere compatibili su questa percezione, c'è stato quel momento di rigurgito dove la gente è scappata come se non fosse mai uscita, e poi a un certo punto, al di là delle proteste, appunto, diciamo, di tutto quell'aspetto che noi non vogliamo trattare in questa specifica trasmissione, poi alla fine comunque secondo me l'apprensione ha preso il sopravvento più che il buon senso, secondo me l'apprensione. Sì, può essere. Io, vabbè, vivo in un paese di 30.000 persone, no? Gigantesco, che è Putignano, in provincia di Bari. Io, se guardo fuori a quest'ora, le strade sono completamente deserte, e io ho un appartamento che dà su una di quelle che le vie, la via principale del centro. Fino a qualche mese fa, a quest'ora c'era gente in giro. Ma anche andando a Bari in questi giorni per motivi di lavoro, io di gente, di traffico, ne ho trovata molto meno. Ha ragione Walter che sicuramente c'è una forte incentivazione allo smart working. La mia azienda, per esempio, ci tiene a lavorare da casa sostanzialmente da marzo, senza che per ora si parli neanche di tornare in ufficio, anzi, tutt'altro. Penso che altre aziende più o meno stiano facendo lo stesso. C'è un po' il problema, penso che non valga solo per Bari, valga per tutte le grandi città, di molti studi professionali, avvocati, commercialisti, quant'altro, che invece questa tipologia di lavoro non se la fanno passare neanche per l'anticamera del cervello con i dipendenti, e quindi quelle sono secondo me fonti possibili di infezione, perché comunque ricevono gente, non sai se sono stati a contatto con altri o meno. Hanno la visione Beppe Sala delle cose, se non è in presenza, sì, non è lavoro. Assolutamente sì, sì, studi professionali me li vedo solo così, diciamo, l'ho toccato indirettamente con mano. Diciamo che, diciamo che anche noi, poi lascio la parola pure a Gianluca, però anche io ho visto le diverse facce della medaglia nel mio settore, no? E cioè, comunque è un settore per cui noi dobbiamo garantire il servizio, però c'è modo e modo di garantire il servizio, nel senso che si può magari stare aperti al pubblico il minimo indispensabile, e per proprio quei clienti che non riescono a fare il pagamento digitale, e poi far lavorare i dipendenti in smart working, o magari il modo ci sarebbe. Beh sì, chi lavora sui servizi è avvantaggiato da questo punto di vista, perché comunque... Cioè, per esempio, senso... il mio commercialista, visto che abbiamo nominato una categoria, si è organizzato così, i collaboratori e le collaboratrici li ha messi tutti in smart working. Lui fa presidio in ufficio, perché ovviamente anche perché bisogna avere accesso ai faldoni, a dati che non necessariamente sono digitali, quindi certo. Lui si è preso in quanto responsabile, in quanto intestatario dello studio, lui si è preso l'onere di andare in ufficio la mattina, però il personale lo tiene a lavorare da remoto. Sì, c'è un'altra agenzia, io vabbè me la cavo da sola, quindi faccio presenza principalmente la mattina e un po' il pomeriggio, però sto cercando comunque di sensibilizzare il più possibile i clienti al contatto, diciamo così, da remoto, e quando è possibile. Ovviamente poi il lavoro di produzione si va un po' a far frigge, ma non del tutto, perché poi capitano occasioni anche in questo senso. E poi si cerca di stare il minimo possibile in agenzia. E io ho diverse realtà, diverse agenzie con cui collaboro, e ho visto chi lo sta facendo bene e chi no. Devo dire la verità, non farò nomi, cognomi, niente, però c'è chi proprio non ha capito che come funziona. Ah, c'è, però, pure chi non c'ha scelta, cioè nel senso no, che... non ce l'hanno scelta, però non, ma magari non, nel senso non capiscono che possono avere la scelta e sentono di non avere la scelta. Ma anche i dipendenti, ma magari c'è stessi, chi non percepisce il problema come con la nostra stessa sensibilità, perché comunque ricordiamo che non tutti sono ancora giunti alla, alla reale consapevolezza del, del, del, del livello di rischio e del livello di pericolosità. C'è ancora chi nega che il Covid sia poco più di influenza, ecco. No, no, no, magari lo accettano pure come, come cosa, però, però negano la possibilità che possa essere poi direttamente un problema che può capitare a loro. E ah, certo. Poi dopo, se tu c'hai tre persone nella stessa stanza e uno di quelli si ammala di Covid, forse poi devi mettere tutti a casa, è peggio. Però se non capiscono. Okay, Gianluca prima ci aveva un po' risposto già a questa domanda, però gliela riproponiamo dicendo, insomma, quindi da te, quando tu guardi intorno, insomma, come, cioè, rispetto alle giornate non pandemia, diciamo, vedi, c'è stata una controreazione, oppure c'è stata un po' l'apprensione che porta la gente a stare un po' più a casa? Allora, conta che per gli orari che faccio io al lavoro mi trovo, cioè il comune dove abito lo vedo poco, nel senso che quando ora giustamente siamo aperti solo a pranzo, ma già quando si è cominciato a mettere le paletti, ad abbassare l'orario, potevamo stare aperti fino a mezzanotte e tutto quanto, e in realtà dove lavoro diciamo il coprifuoco si era già visto, quindi le persone, diciamo, avevano ricevuto la situazione, perché tu uscivi la sera, non c'era nessuno proprio per strada, e si è cominciato, diciamo, il lavoro è cominciato a calare velocemente, e anche quando uscivi presto, perché comunque avevi fatto il tuo, quello che ti era toccato la sera, uscivi, non c'era nessuno davvero, quindi, però di giorno è strapieno, nel senso, io arrivo al lavoro che non c'è posto, mentre prima la situazione è normale, un posto lo trovo per la macchina. C'è stato un momento che posto proprio. Cioè, tu dici, visto tutti... che possono venire solo a pranzo, vengono tutti a pranzo. Non, no, non solo quello, proprio la gente andava al centro del paese, andava sul lungomare, andava a fare al mercato, alla spesa e tutto quanto, ma tutto, capito, dalla mattina fino a dopo pranzo, per dire che era strapieno. Facciamo quello che la possiamo sera, fino a che non ci cacciano, insomma. Esatto. La sera giustamente non c'è nessuno. Vabbè, questo appunto, diciamo prima, la differenza un po' tra i centri che magari lo stanno, non ci hanno ancora avuto l'impatto, e che quindi probabilmente se rendono conto fino a un certo punto, insomma. Senti, io volevo fare una domanda a Gianluca. Sì, poi facciamo una pausa, perché poi voglio aprire un altro tema importante, vai. Che tema vuoi aprire? Comunque, perché io... aspetta, dove lavoro io, non tanto qua dove vivo, perché... ho pochi contatti attualmente, diciamo, poco tempo, poco, cioè non è che parlo tanto delle persone, ma sento tanti discorsi dove lavoro io di gente, e minimizzano tutti più o meno il contagio. Sì. Ci sono persone, cioè c'è qualcuno giustamente che è spaventato, ma la maggior parte in realtà minimizza tanto. Ma questo è... vai, Michela. No, non so se sarà un tema che tratteremo dopo, però dato che adesso gli aiuti, tra virgolette, i finanziamenti stanno arrivando in teoria soltanto per le categorie colpite dal primo DPCM, da quello prima di questo che è uscito qualche giorno fa, e quindi gli aiuti alla ristorazione, volevo capire se effettivamente c'è qualcosa di concreto o è tutto aleatorio, perché io non mi sono interessata più di tanto, perché non mi toccava, insomma. Ho letto qualcosa, perché ovviamente si tratta del settore in cui lavora mio figlio, però ho letto che qualcosa dovrebbe essere arrivato. Il quale sarà... giustamente si è visto bene di cercare lavoro nel settore, si è messo a fare altro lavoro. Perché non è stupido, diciamo, vedi? Vabbè, era un settore che prima prometteva, nel senso... Sì. No, no, però lui ha detto, no, adesso andare a cercare... Cioè, lui, quest'estate, quando le cose erano un po' riesplose, ha detto, piuttosto di andare a cercare lavoro in una situazione come questa, che ancora non si sa, capito? Perché tanto ci sarà la seconda ondata, quello che è. preferisco andare a fare un altro lavoro che non c'entra niente, aspettando tempi migliori. E in effetti ha fatto bene, perché oggi si sarebbe trovato senza lavoro, così come è successo alla ragazza che è stata subito mandata a casa. Sì, nel fine settimana poi lui continuava comunque a lavorare nel catering, e i catering sono saltati. Spariti proprio, cioè sì, quello è da noi. E questo è un po' anche indice, no? Perché invece prima continuavano a fare queste feste, queste cose, questi aggregamenti. Ora non si può proprio più. No. Però vedi, cioè, nel senso, vedi la differenza tra magari regioni come la nostra, che un po' l'avevano già capito, e regioni magari come la Lombardia, che ancora insisteva a voler comportarsi in quella maniera lì, cioè nel senso proprio noi siamo così, cioè proprio io è una cosa, ragazzi, questa cosa mi manda fuori de matto, perché io non la capisco proprio, cioè in un contesto come questo, cioè o puoi rinunciare alla pericena, no, poi insomma, boh, questa è un po' la mia impressione. Milanese medio, stupragli la madre, ma non gli toccare la pericena. può essere. Insomma, la sensazione è davvero quella. Vabbè, ragazzi, io faccio un attimo. No, abbiamo fatto la domanda a Gianluca. Ah, scusa, hai ragione. Vero, scusa, ero distratto perché ero più concentrato sul fare la pausa. Sulle luci che c'ha là. Tutte lucette, quante. Tutta una regia, bello, bello. Senti, allora, per il ristorante dove sono io, perché adesso non si sa ancora niente. Ok. Quindi loro stanno parlando col commercialista per capire, ma ancora non si sa niente. Nel primo lockdown non ho avuto niente, praticamente. Però c'è chi dove beh, non ci hanno avuto niente, io posso permettermi, Gianluca, non te voglio mettere, però fatico a credere, cioè, sta cosa. Vabbè, no, non è detto. Io da quello che, allora, io mo non è che gli faccio non te, io so che quelle sono le informazioni che c'hai tu, certo, è chiaro. A quello che mi dicono, certo. 100 euro so quello. Quindi se allora è toccato 500 euro sarà toccato quello, io mi fido di quello che mi dicono, altrimenti cioè, e ora stanno parlando con il commercialista per capire cosa possono avere, che aiuto possono avere. Per quanto mi riguarda ancora niente, nel senso, io devo parlare col sindacato che mi fa le pratiche per queste cose, e poi domani devo chiamare e vedo se mi spetta qualcosa. Io ovviamente sto guadagnando di meno perché sto lavorando di meno, ti spera di poter riceve che è un aiuto, però vediamo quello che è. Però so che altri ristoranti, o meno che ad altri ristoranti o bar, comunque spetta l'aiuto, perché già l'hanno avuto la prima volta, e a seconda della grandezza, diciamo, è abbastanza sostanzioso. Poi se arriva o non arriva, questo non lo so. Penso che la prima volta è arrivata, quindi dovrebbe arrivare anche questa, per quello che so io. Allora, facciamo così, facciamo questa pausa, io metto un attimo un brano, che tra l'altro anche per celebrare un artista che recentemente, non troppo tempo fa, ci ha lasciato, giusto? Questo se parli di... Di Van Halen. Ah, Van Halen, sì. Okay. Certo. Ok. Sì. E, un mesetto fa, così preparo un contenuto audio che ci è arrivato da Davide Gatti e che mi aiuta un attimo per introdurre un tema che voglio fare, in particolare anche con Walter, perché so che comunque la cosa l'ha già approcciata, insomma, quindi ci ascoltiamo fra qualche secondo. Puoi presentare il brano, Michela? Che dire, cioè praticamente la colonna sonora della vita di tutti, insomma, quando uno poi si sente un po' giù o c'ha bisogno di un po' di carica, alla fine parte questo brano e si sente in pace col mondo. Quindi ascoltiamo Jump. Nothing. Yet. d'estate io stavo facendo karaoke nel frattempo, e... ma i miei compagni ce l'ho qua o non mi sentono? Perché mi sentite, ragazzi? Dove ci hai lasciato? Sentiamo. Ci ritrovi. Ah, ok, sì, sì. Perché io ho finito i potenti mezzi di runtime, a un certo punto chiusa, cioè inizia la musica e io non vi sento più, quindi non vi posso ammorbare con le mie chiacchiere, purtroppo. E comunque, intanto che aspettiamo il contenuto, continuiamo a parlare dei contributi, perché è un tema interessante, e anche ieri Conte ha detto che comunque arriveranno, quindi vediamo che succederà, insomma, vediamo un po'. E, qua pure le aziende, insomma, cominciano a preoccuparsi di dover chiudere, i bar stanno già andando l'altro giorno sono andata da un cliente, mi ha detto ci stanno togliendo la vita, ci levano la vita. Io capisco, però che quando la necessità, se no, la vita da levar virus è ancora meglio, esatto, è così eclatante, nessuno vorrebbe chiedere questo tipo di sacrificio, nessuno lo vorrebbe fare. Però io per esempio non sopporto quelli che dicono che se non ci ammazza il Covid ci ammazza la fame, perché mi sembra veramente mamma un discorso mia. Quelli che sono andati in piazza con Pappalardo, ci abbiamo fame, cioè, raga, ma voi siete un insulto a quelli che ci hanno fame. Vorrei, cioè, raccontarvi un aneddoto ieri di un cliente che mi ha detto: allora, qua ci stanno prendendo tutti in giro. Io gli ho detto: ci stanno a piabbo culo. Ma come ci stanno a prendere in giro? Che stai a dire? Sì, perché scusa, siamo stati tutta la notte a vedere le elezioni americane e non si è parlato del Covid perché hanno fatto vedere le elezioni americane, quindi che il Covid se lo ricordano quando gli pare? Io, vabbè, silenzio, ovviamente c'ho il mio schermo, quindi faccio quello che devo fare, aspetta che ho quasi finito. E poi, però, c'avevo proprio la spungola, l'unica cosa che io ho detto, forse quello che succede in America ci tocca anche un po' a noi, insomma, nel senso che alla fine, sai, in un mondo globale, da un certo punto di vista, forse. Ma non solo, magari stanotte l'evento globale è talmente grosso che stai sveglio a guardare la maratona TV per capire come andrà a finire, le altre notti tendenzialmente dormi, non è che stai a seguire i fatti del Covid le altre notti, sì, no? Ma vabbè, quindi, per farvi capire il tenore, insomma. Però la situazione è ingarbugliata, la situazione è piena di complottismo. E quindi... Vabbè, però abbiamo detto che noi di questo non ne volevamo parlare in questa puntata. Allora, io vi faccio sentire questo audio di Davide Gatti, che è breve, dura 3 minuti, però ascoltatelo bene, perché in realtà apre anche una domanda che volevo fare, in particolare a Walter, però poi a rotazione, vabbè, ovviamente chi può, perché poi in realtà non tutti sono entrati a contatto appunto con questo problema qui. Allora, ciao a tutti, sono Davide Gatti e volevo dare il mio breve contributo su quello che mi è accaduto in questo weekend. Sono stato in contatto con una persona che ha avuto contatti con una persona positiva al Covid nell'ambito lavorativo. Chi ha saputo di aver avuto contatto con questa persona l'ha saputo di recente, diciamo venerdì scorso. Io con questa persona abitualmente vado a pranzo e quindi andiamo in macchina assieme, e quando mangiamo siamo ovviamente a viso scoperto e mangiamo e poi chiacchieriamo. Insieme a noi c'è anche un terzo personaggio, il quale vado a pranzo, e quindi siamo in tre. Nel weekend, sabato, io mi sono alzato con forte raffreddore, fortissimo, costipazione, mal di gola, tosse, bruciore delle vie respiratorie, insomma dei bei sintomi. In più mi chiama sempre sabato quest'altro collega, quello che viene a pranzo, non quello già che è stato a contatto con, ma quest'altro che invece comunica che la sua compagna è positiva e che quindi lui, insomma, in qualche modo potrebbe esserlo anche lui. Bene, mi ritrovo quindi sabato con la consapevolezza di essere stato a contatto con due persone potenzialmente positive e io con questi sintomi. Ero un po' preoccupato. Allora ho cercato di contattare il mio dottore scrivendogli una mail, che telefonicamente è praticamente impossibile, soprattutto sabato e la domenica. Scrivo una mail per cercare spiegandogli tutta la situazione per ottenere da loro qualche informazione. Vabbè, io però molto preoccupato, ho cercato di arrangiarmi per i fatti miei e attraverso tutta una serie di sistemi sono riuscito a fare un tampone rapido ben lunedì. Nel frattempo ho scritto anche a diverse altre mie aziende che fanno tamponi per avere una risposta su come poter prenotare senza mai aver avuto nessun tipo di risposta. Comunque sono arrivato lunedì senza aver avuto risposte dal dottore, perché ovviamente nel weekend non lavorano e quindi ciccia. Siamo a lunedì, provo a telefonargli per avere conforto, ma non riesco a, ovviamente, a prendere la linea. Beh ragazzi, siamo a giovedì, io non ho ancora ricevuto nessuna informazione dal dottore, nessuna informazione da chi fa tamponi e nessuno mi ha risposto. Cioè proprio sono completamente abbandonato, senza aver, boh, non sapere cosa fare. Io mi sono comunque arrangiato, ho fatto il mio tampone per i fatti miei, ho scoperto di essere negativo, anche i miei colleghi lo hanno fatto, erano negativi, va bene, tutto a posto. La cosa veramente impressionante è quella di non essere riusciti a comunicare con il dottore. E voi pensate, ma ci credo, abiti nel Burundi? No, abito in provincia di Milano, in un paese praticamente di fianco a dove c'è San Raffaele, in un paese dove ci sono praticamente due ospedali e dove ne ho altri 30 di fianco, dove c'è un servizio sanitario eccellente, ma non sono riuscito a parlare col mio dottore, è allucinante. Questo mi ha veramente rattristito. Beh, ancora io non ho avuto risposta, vediamo, passerà la settimana e il mio dottore un giorno mi contatterà e mi dirà: ah guardi, se ha questi sintomi stia a casa. Dico: guardi, sono già morto, mi spiace. Boh. Bene, questo è un po' il messaggio di Davide Gatti, perché volevo arrivare a Walter. Prima di tutto faccio la domanda a Puccio. Cose. Sì, appunto, no, vabbè, ma adesso ci arriviamo, perché il tema è, comunque apre un tema interessante. Prima di tutto la domanda la faccio a Puccio: in teoria una persona ha accesso al tampone quando? In diversi casi ha accesso al tampone se ha ricevuto la notifica di Immuni dopo qualche giorno, in realtà non viene sempre rispettata come cosa. Io mi dimentico sempre che esiste Immuni. No, beh, abbiamo anche la testimonianza. Mi dimentico sempre che esiste Immuni. Abbiamo anche la testimonianza di Immuni, che purtroppo non può venire qua perché non sta bene, c'è il Covid, ma la invideremo. Ecco. La invideremo, allora, perché lei si è buttata. Sì, poi vi racconto. Quindi funziona, vabbè, poi. Quindi funziona. No, funziona. Oppure in presenza di alcuni casi, di alcuni sintomi che vengono riscontrati dal medico a cui ci si è rivolti, che dovrebbe essere il proprio medico curante, che sono quelli tipici del Covid, quindi febbre alta, tosse secca, dolori articolari, assenza di senso del gusto e dell'olfatto, eccetera, eccetera. In quel caso vieni segnalato alla ASL, che dovrebbe mandare qualcuno a farti un tampone o dovrebbe convocarti per farlo. Dove poi vai a farlo dipende dalla zona dove vivi. Paesi medio piccoli che hanno ospedali dove magari c'è solo il pronto soccorso hanno allestito delle aree triage con la stanza per fare i tamponi, quindi ci devi andare a te. In altre città vengono a casa tua, bardati come quando in E.T. di Spielberg vanno a recuperare l'alieno, ti fanno il prelievo e vanno via e ti comunicano il risultato. Questo in teoria. Nella pratica ci abbiamo il problema che, come nei videogiochi, le risorse non sono infinite, nel senso che non è tanto un problema come era all'inizio di reagenti e di tamponi, quanto un problema di quanti laboratori e quante persone lavorano nei laboratori che possono analizzare un certo numero di tamponi. È vero che anche questa curva, quella dei tamponi, è in crescita. Se andate a vedere, noi oggi ne abbiamo fatti più di 200.000. 218.000, se ho detto bene, correggetemi, perché comunque le persone sono più allenate, riescono a processarne di più. Il problema è che molte aziende sanitarie stanno comunque cercando di mantenere il numero di tamponi richiesti al minimo indispensabile, anche per non intasare i laboratori, quindi stanno segnalando solo i casi praticamente manifesti e quelli sospetti a un livello un po' più alto. Tutti gli altri, quelli sono stato in contatto con una persona con la tosse o la fidanzata trilaterale di mio cugino ha il Covid e io ho visto lui l'altro giorno, stanno cercando di tenere queste cose un po' più sotto traccia. Io intanto voglio dire a Rizzard che si chiama Michela, non Paola. No, Manuela stata. Paola De Michela. Vabbè, no, di solito è Paola. Antonella, Paola. Chissà perché. Vabbè. Però vabbè. Io avrei da dire un pochettino. Aspetta, finisco, mo ti passo. Aspetta, okay. Finisco. Invece, comunque, in teoria, se per accedere al tampone, l'abbiamo visto pure con Cane Secco, no? Comunque devi essere autorizzato dal tuo medico, cioè devi avere la cosa. Oppure puoi andare privatamente e fare un poi ce ne sono diversi. Perché giustamente lui, Davide, a un certo punto dice: mi sono dovuto muovere per cazzi miei e mi sono dovuto organizzare. Tu mi pare, Walter, hai fatto la stessa cosa. Sì, però il percorso, il mio iter è leggermente diverso, nel senso che prima di tutto noi quando abbiamo capito in ufficio che c'era il rischio, parlavamo ancora a livello ipotetico, che non il nostro socio, ma che la compagna del socio potesse essere positiva, abbiamo detto ok, per non saperne né scrivere, tutti smart working subito. E quindi da quando poi il nostro socio ha avuto la conferma che la compagna era positiva, e erano passati alcuni giorni, e ne sono passati ulteriori quando lui ha manifestato i suoi primi sintomi, quindi noi difficilmente siamo stati esposti effettivamente all'agente patogeno, perché i sintomi sono sopraggiunti dopo. Però siccome in mancanza di sintomi e in mancanza poi di uno screening certo, anche perché da noi avevano inaugurato da pochissimo il drive-in per i tamponi, ma non aveva e non ha credo ancora il meccanismo di prenotazione, quindi dovevi andare lì, fare la fila eccetera, e fa la croce, e sapendo che comunque per fare un tampone di quelli dell'ASL le strade sono due, o te lo deve prescrivere il medico o te lo deve prescrivere l'ASL. Non avendo noi, nel momento in cui abbiamo capito che c'era il rischio, nessun sintomo, chiamare il nostro medico avrebbe portato molto probabilmente solo a sentirci dire rimani isolato e se non hai sintomi per 2 settimane sei libero, appena hai un sintomo chiamami. Allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo informati, abbiamo capito che a Roma c'erano vari laboratori e medici privati che effettuano non l'esame sierologico, che a noi non sarebbe servito a niente in quel momento, ma il tampone molecolare rapido, che ha un indice di affidabilità inferiore a quello canonico, però che comunque ha una discreta affidabilità. Quindi sostanzialmente sia io che la mia socia siamo partiti ognuno con la sua macchina, ci hanno dato, questo medico di questo studio di Roma ci ha dato appuntamento, uno alla volta siamo andati lì, ci ha fatto il tampone in 3 minuti, ci ha dato l'esito, abbiamo pagato di tasca nostra e ci siamo tolti diciamo il primo grado di preoccupazione. Chiaramente sapevamo che non era sufficiente a scongiurare completamente la problematica, e quindi sostanzialmente di buon grado ci siamo chiusi a casa, quello che comunque bisogna fare, e abbiamo aspettato di capire intanto se il nostro collaboratore, il nostro socio avesse effettivamente poi confermato i sintomi, e se nel frattempo magari qualche sintomo potesse subentrare in noi. E come ho raccontato, il collega ha avuto una diagnosi a un tampone a posteriori dopo la fase di sintomatica, quindi al momento il collega ha avuto un tampone negativo, e quindi probabilmente noi non saremmo rientrati comunque in quella fase di screening, di contact tracing, per cui avremmo potuto fare il tampone a nostra volta. Però insomma i tempi si sono dilatati a sufficienza, sono passati ormai più di 20 giorni dall'ultima volta che abbiamo visto il collega, quindi ci possiamo dire abbastanza serenamente, senza aver fatto ulteriori indagini, pericolo scampato, ecco. Però ci siamo mossi in questa direzione per evitare di finire nelle spire della burocrazia senza poter uscire di casa, ma anche senza avere un tampone, perché ripeto, per quelle che sono le linee guida della ASL e del medico di base, nessuno di noi avrebbe potuto ricevere un tampone immediato, sia perché il collega non aveva ancora avuto a sua volta una diagnosi, e sia perché noi eravamo completamente asintomatici. Ok, scusa, sta a cercare l'acqua. allora io vorrei che tra l'altro non so dove l'hai fatta sparire. No, vabbè, troveremo. Io ci avrei, allora, vabbè, a parte che purtroppo o per fortuna la lista è bella lunga di persone che conosco, e c'ho, purtroppo, diciamo purtroppo, dai, un'amica che è la maestra di mio figlio, che però è rimasta amica e cliente da una vita, che praticamente loro hanno fatto il tampone sabato tutte e quattro, perché sono state a contatto con un positivo, quindi moglie, marito e 2 figli piccoli sono praticamente a casa, chiusi in casa in isolamento, e da sabato aspettano i risultati, quindi diciamo potrebbe essere una buona notizia, perché di norma quando tardano sono negativi. Sì, perché in effetti nessuno di loro c'ha i sintomi, tranne la bambina che sente mal di gola, mal di gambe, ma la bambina è molto spaventata, quindi ci potrebbe essere possiamo dire anche che in effetti, come dice Walter, Matteo, per esempio, il nostro Matteo ha dovuto fare il tampone perché al lavoro ci hanno avuto dei problemi. Diversi casi. Gli hanno fatto 2 volte il tampone e gli hanno detto se se ricevi notizie da noi entro 40 minuti, un'ora, non so quant'è, vuol dire che sei positivo, altrimenti diciamo che l'azienda di Matteo ha fatto di questo tra virgolette patto con l'ASL, per cui ha concesso che l'ASL continuasse a fare il tampone per diverso tempo, quindi per circa un mese, a tutti i dipendenti, e fino a, diciamo così, a debellare e a isolare i positivi, i dipendenti positivi, piuttosto di chiudere, perché metodo obbligatore, per fortuna il suo tampone è sempre stato negativo, quindi siamo abbastanza contenti, ma speriamo che la situazione sia invece ci sono tra gli infetti no. eccellenti. Ah sì, e poi a parte quello, prima di passare immuni, così poi dopo sentiamo tutti e abbiamo una testimonianza importante sì. di immuni, che poi spero che verrà qua quando sarà guarita, perché insomma poi lei è una battagliera in tutto, eppure con immuni ha fatto... Vabbè, diciamo che ci ha anche sempre stimato, insomma. Quindi. E quindi fantastica. E prima di parlare di immuni, io vorrei un attimo, mi dispiace che non c'è Carlo, però io lo vorrei toccare. Sta cosa, Carlo? Da vicino, Carlo Sant'Agostino. No, nel senso, vorresti toccare Carlo? No, cioè, tutto il bene che voglio a Carlo, però adesso non vorrei proprio toccare manco da lontano. Ma perché? Perché? Cioè, sei passato da recenso a un altro, cioè, proprio, invece rume è incredibile. Ma no, io vorrei toccare un attimo l'argomento Lombardia, perché dalle parole di Davide Gatti... Io, cioè, Davidone, io ti voglio bene, e tra l'altro a un certo punto dal tuo racconto ho pensato che ti fossi costruito in diretta un test per il Covid. Però, il che potrebbe essere il survival hacking, il test del tampone fatto in casa. Il fatto che comunque non rinunciate ancora a andare a pranzo tutti insieme nella stessa macchina, sì, è bene. E alle abitudini che ci avete, comunque questo un po' rispecchia, è quello che dicevo prima io, il comportamento della Lombardia, che vedo anche in altre situazioni. Cioè, volevo dire una cosa, cioè, no, vai. È brutto parlare visto che Davide non è qui. Non è Davide, non c'è neanche Carlo, insomma. Nel senso, però sono un po' rimasto meravigliato da questo approccio per cui a fronte di un'ipotesi non si è barricato in casa, cioè io stranamente poi perché conoscendo Davide in realtà io non uso immuni, cioè ho una serie di preconcetti, però è chiaro che se so di essere a rischio mi chiudo in casa, cioè l'unica cosa da fare. Diciamo che c'è però questa tendenza, cioè non la voglio generalizzare per carità, però c'è questa tendenza un po' dalla Lombardia di ok, se proprio devo stare dentro casa, se no continuo a vivere e a fatturare, lavorare, è un fattore antropologico, ragazzi. E quindi anche il fatto, cioè, a un certo punto tutti magari ci abbiamo, magari che ne so, quel pranzo col collega, quel pranzo con l'amico, che abbiamo comunque detto, ci siamo detti, ragazzi, magari lasciamo perdere, lo rifaremo più avanti, no? Faremo qualcosa più avanti. Magari qualche settimana fa l'ho fatto pure io, però negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ho proprio capito che non era proprio il caso, insomma. Secondo me c'è però questa... io poi, cioè, noi voglio fare nord contro sud, sud contro no, vabbè, non c'entra niente. Sì, comunque ci sono alcune aree che hanno una mentalità diversa, cioè, è per proprio un'abitudine comportamentale che loro la fattura TAC. Guarda, Rizzard, sì, molto spesso anch'io porto il cliente a pranzo se serve o una cosa del genere. Ah, voglio a pranzo con il cliente. O comunque gli pago l'aperitivo, dai, il pranzo è successo solo per cose importantissime. Però comunque o gli porto i pasticcini, quello sempre gradito, o i bonsai, ecco, una volta un cliente gli ho regalato un bonsai, quindi ma che è sta merda, scusi, perché non so riprendere. Senti Gianlu, ma tu sai nella tua zona dove si fanno i tamponi? No, sinceramente no. Però vedi, anche questa è il, cioè, nel senso, proprio non ve ne preoccupate proprio voi di questa cosa, cioè. No, io non lo so, devo essere sincero, non so come... Io penso che se c'è qualche problema vengono a casa, lo facciano direttamente a casa, tutti bardati, anche perché li ho visti passare così, tutti bardati, poi non lo so, devo essere sincero. E probabilmente a Piombino, cioè qui vicino, li faranno lì, perché fuori c'hanno le tende, fuori all'ospedale, fuori al pronto soccorso, prima di entrare devi passare alla tenda, anche quando ebbi l'incidente con la motocicletta, prima dovresti passare alla tenda a fare il controllo febbre e tutto quanto, e poi mi fece entrare nel pronto soccorso, quindi penso, ipotizzo, si faccia là. Ok, no vabbè, perché mi rendo conto che ci sono alcune zone che magari non c'è, cioè proprio dice, dove sta il drive, c'è il drive in, oppure bisogna andare al laboratorio. A me la cosa che mi ha colpito molto di Davide, poi torniamo un attimo a Michela e poi andiamo a una notizia che ha postato prima tra di noi, ha postato prima Carmine, anche se possiamo decidere se parlarne qui o parlarne in OGM, perché in effetti è un po'... E forse ce la possiamo conservare perché è un po' da bestemmia. Esatto, sì. Più che altro la morte di bestemmia. Più che da OGM. Esatto. Vabbè, allora ce la conserviamo, ah, facciamo così. Tanto comunque quando torneremo presto in lockdown ci sarà anche morti di bestemmia. Sì, sì, a voglia. Torneremo qui, ce l'ha proprio tanto da fare. Sarà una puntata a fiume di 8 ore, con pause ogni 2. A me la cosa che mi ha sconvolto un po' del racconto di Davide è questa cosa del medico di famiglia, cioè quindi questa difficoltà. Vabbè, ragazzi, cioè io non so la zona di Davide quale sia, però mediamente i medici di famiglia non sono tantissimi, cioè hanno un numero di pazienti, non dico tipo il medico della mutua di Sordi, ma siamo là in le strutture dei medici di famiglia. Ma io c'ho il cellulare e il WhatsApp del mio medico, però io non lo so, no, ma il realtà, mio medico mi ha dato il cellulare. In altre nazioni sta cosa l'hanno bypassata. Tipo, se hai il sospetto Covid, devi chiamare sto numero verde, ti dicono loro, aspetta, stai lì, veniamo noi, oppure dove abiti, allora vai qui, e hanno bypassato in questa maniera. Però vi dirò di più, io la maggior parte dei tamponi di cui sto sentendo parlare, dico, nel mio microcosmo, è gente che ha chiamato l'ospedale, ha detto, c'ho sti sintomi, sto venendo all'area Covid dell'ospedale, lì se il caso gli hanno fatto il tampone, se era altro, perché viva Dio sta girando pure l'influenza e i sintomi sono in alcuni casi sovrapponibili, li hanno rimandati a casa. Ma infatti noi l'altro giorno siamo andati dal dottore a fare il vaccino anti-influenzale, che io faccio tutti gli anni proprio per sollecito del medico, e dice comunque vabbè, nel senso sono uno di quei soggetti a rischio che è meglio che non si prende neanche l'influenza, e stava incazzato nero il me, cioè proprio si vedeva che... Sì, perché ci stanno un po' di proposte per cui gli hanno chiesto di fare anche loro i tamponi, sì, sono però un po' preoccupati. Non si capisce bene, poi comunque c'è la segretaria... No, vabbè, nell'ambito dei loro pazienti sì, cioè è girata sta cosa. Ragazzi, però questo è niente. Infattibile. Questo è niente per quanto riguarda la Regione Lazio. È notizia di oggi che si stava ipotizzando, ma io onestamente non credo proprio che ci siano i mezzi per farlo, questo ripeto, nella Regione Lazio, di rendere obbligatorio il tampone una volta al mese, a prescindere dalla sintomatologia, a tutti gli over 65. Proprio di controllo, di routine. Non è sbagliato. Se non fosse non è che non è sbagliato, sarebbe giusto, ma è materialmente non stanno dietro a soltanto ai positivi, ai contatti. Vabbè, diciamo che però, ragazzi... Anche perché in Italia ci sono più over 65 che ragazzi di 18 anni. Esatto. Diciamo che la situazione evolve, quindi magari adesso non riescono a stare dietro a tutta la situazione, ma... Magari faranno dei test che ti fai da solo, mettendo una supposta arancione. In realtà dei test rapidi, tra l'altro basati sulla saliva, sono abbastanza sono pronti, si comincerà ad utilizzarli per i bambini delle scuole elementari, che ovviamente per loro è più complicato fare il tampone nasofaringeo, però insomma se dovesse, cioè, ci auguriamo che il tampone salivare diventi più diffuso, perché diventa molto più pratico farlo in tutti gli ambiti. Allora. No, più che altro perché poi dicono che c'è stata pure una polemica su sto tampone nasofaringeo, tra l'altro, se non mi sbaglio, che dice che sì, perché si spegne la glandola pineale. A me non mi c'entra comunque, secondo me, esatto, non ci riesce alla dritta, divertitevi pure, è tutto storto, quindi allora io vorrei passare a Enrica. Vai. Perché la storia di Enrica, che poi, vabbè, allora, adesso parliamo di Enrica Salvatori. Enrica Salvatori, che è praticamente la storica voce del fantastico podcast Historycast, quindi noi l'abbiamo conosciuta così, E è una donna fantastica, un pezzo di storia del podcast italiano, sì. Professoressa di storia medievale di Pisa e grandissima nostra sostenitrice, ma noi soprattutto sosteniamo lei perché è veramente meravigliosa. E niente, lei si è ammalata di Covid, in realtà lei sta in Liguria e perché vive in Liguria, fa la pendolare, quindi si è ammalata di Covid. Il suo medico gli è stato abbastanza dietro e ha monitorato i sintomi fino a capire che c'era bisogno del tampone, e è riuscita ad avere il tampone in tempi anche abbastanza rapidi ed è riuscita ad avere i risultati in tempi abbastanza rapidi, insomma, che per quanto riguarda magari noi del Lazio ci diciamo wow, che fantastica cosa. E il problema è iniziato quando lei ha detto: io vorrei segnalare la mia positività a Immuni, e da là è nato proprio il finimondo. Credo che lei praticamente è stata dichiarata Covid il 23 ottobre, c'è riuscita, adesso sto vedendo da quello che è scritto, c'è riuscita praticamente ieri, quindi vi dico tutto. E inizialmente praticamente ha capito che non era lei che doveva segnalare la sua positività, ma no, la ASL. La ASL praticamente chi si occupa di questo, diciamo così, di queste comunicazioni, gli ha risposto che era impossibile perché praticamente l'app non funzionava. Quindi ha detto: signora, lo scordi, perché tanto non funziona. Ma lei non si è arresa. E alla fine, dopo, penso che sia stata, cioè abbia passato il Covid al telefono, da quello che ho capito, poi ce lo faremo raccontare bene da lei. E è riuscita soltanto ieri a comunicare a Immuni la sua positività, e quando all'operatore gli ha detto: ma non è un po' tardi, perché io sono positiva dal 23 ottobre, gli ha detto: signora, lei è una delle più veloci di quelle che riusciva a comunicarlo prima. Quindi insomma, poi io non l'ho ancora scaricata sta Immuni, perché c'è la paura matta in realtà di scaricarla, però devo dire perché che è stata tenace, ti guarda dentro l'anima che è stata tenace e ce l'ha fatta, e poi spero che si rimetta presto e che voglia venire a raccontarci per bene il suo travaglio. Poi la sentiremo. Però sta cosa le facciamo tanti auguri. Allora, il problema è che Immuni non l'hanno scaricata in tanti, molti l'hanno boicottata, con noi compresi, perché abbiamo sempre avuto un'opinione insomma abbastanza negativa del modo in cui è stata sviluppata, del modo in cui viene gestita, come e vengono poi gestiti dire i dati. Qualcosa proprio di questo. Ecco. Siamo in due. Quindi alla fine voglio dire non poteva neanche, cioè nel senso, se non c'è una penetrazione totale di uno strumento come questo. Ah. Esatto, bravo. Allora Walter, allora tu Gianluca, per esempio, Immuni l'hai scaricata? Perché tu ne hai parlato un po' di no, tempo, non l'ho scaricata. Però ci hai pensato, è vero? Ci ho pensato come tutti quanti, ma non l'ho scaricata. E comunque nel frattempo ho chiesto a mia moglie per il fatto del tampone, perché è meglio sempre chiedere. Bravo. E sì, praticamente chiedi, avvisi il medico di famiglia e lui ti dà un appuntamento per andare lì verso vicino all'ospedale. Abbiamo Stefania, per cui praticamente senza di lei tu saresti un uomo perso, l'abbiamo dimostrato. Ma io sono anche un uomo perso comunque. Sai che pensavo, Gianluca, proprio ieri vedendo il video dei cani secco di quelli della Sling Dog, che praticamente il Covid a me a te sarebbe una tragedia, ma non per il malanno, tutta la febbre, le possibilità di morire, va bene, ok, è perché non senti i sapori, per me cioè deve essere una cosa... Esatto, anche perché io mi posso basare solo su quello, il fatto è gusto, perché con la fibromialgia sto pieno di dolori, quindi a me i dolori non cambiano niente. Tra l'altro quindi io seguo... Vai Gianluca. No, vai, finisci, pensavo che avessi finito. No, mi affido a quello io, quindi l'unico modo per capire se lo prendo sarà quello. Certo. Infatti. Mia mamma è come autodiagnosi. Cioè, vabbè, no, ho capito, però quello, cioè, quello beveva il rum, dice a me mi sembra di bere l'acqua, sì, cioè, nel senso è una cosa. Vabbè, ci sono dei lati positivi. E ti puoi ubriacare senza problemi, tu dici. Io sono astemio, però diciamo, riuscirei a bere. Esatto, esatto, volta una ciucca la prendi, insomma. Cioè, ma poi che è un problema neurologico, cioè nel senso dove influisce l'astemia o il no, il sì, è neurologico l'astemia, sì. No, nel senso il fatto di non sentire sapori, cioè no, dove... perché tu i sapori li sai, vabbè, il senso del gusto, cioè, ti viene il recettore del sapore, quello che è sulla lingua, quelli che è nel naso, vengono addormentati dal virus, diventano inerti. S'abbioccano. Sono la S'abbioccano. Infatti, se volevo dire sta cosa, poi ve lascio la parola. Io sto seguendo su Instagram una ragazza che praticamente lavora per diverse società e anche in proprio, però lei ha concentrato tutto il suo lavoro in... praticamente ideatrice di profumi, quindi lei lavora miscelando fragranze. Gran casino. E praticamente si è barricata in casa, è di Roma sta ragazza, e si è barricata in casa da mesi perché c'ha il terrore di prendere questo. Oddio, certo, passa tutto il giorno a sniffare odori, secondo me alla fine pure quello ti dà un danno neurologico a lungo andare, però insomma. Comunque Rizzard Michela ti dice scaricalo immuni, adesso non morde, dice. Ah, ok. Non mordeva neanche, cioè vabbè. Vabbè, vogliamo dedicare 3 minuti ai immuni, ma 3 minuti però, perché sennò poi c'è da fare da Nightmare alla fine, insomma. No, escludiamo le questioni legate a privacy, trattamento dati, perché secondo me adesso okay. Il problema non è più quelli. Immuni l'hanno rilasciata, esiste, piaccia o non piaccia. Il problema è che Immuni è da sola a combattere, a fare contact tracing, a combattere uno scenario troppo più grosso di lei, e quindi manca di tutti quegli elementi attorno... Immuni sarebbe dovuto essere l'ultimo anello di una catena che doveva partire intanto da una massiccissima disponibilità di tamponi e poi tutta una serie di relazioni fino ad arrivare all'uso di Immuni. Perché questo? Perché Immuni da sola è basata su una tecnologia che non è nata per fare quelle cose. Il Bluetooth non è nato per verificare se e quanto sei vicino a una persona, per quanto tempo, in quale direzione, eccetera. Quindi, al di là di tutto quello che è la questione della privacy, che qui non c'è in ballo, la possibilità di ricevere delle segnalazioni ipotetiche e quindi anche falsamente positive, perché io e te siamo stati nello stesso luogo ad una certa distanza, per un certo tempo, e questo di per sé non presuppone per niente che io e te siamo entrati in contatto e che io, quello positivo tra i due può aver infettato l'altro. Potevamo essere di spalle l'uno con l'altro, potevamo essere separati da barriere fisiche che avessero impedito il passaggio del virus o di altro. Quindi gli scenari sono talmente tanti per cui... basarsi solo su questa tecnologia di prossimità con un'attendibilità molto più bassa secondo me di quella che dicono può andare bene solo in che scenario? In uno scenario in cui se tu ricevi un allarme una notifica di esposizione, allora tu entro 24 ore mi fai un tampone, allora lì mi sta benissimo, Immuni può essere utilissima. Ma se l'alternativa è quella pratica, cioè ricevi un alert da Immuni, tu l'hai ricevuto, quindi intanto la prima cosa che dovresti fare è metterti in auto-isolamento fiduciario. Poi potresti anche ignorarla, proprio perché il dato è anonimo, nessuno ti obbliga, puoi cancellare la segnalazione e nessuno saprà chi sei e che l'avevi ricevuta. Però se vuoi applicare il tuo senso civico, se Immuni ti segnala un'esposizione, che può essere anche il margine di almeno una settimana precedente, quindi tu comunque ricevi una segnalazione riferita a una settimana prima e quindi intanto sei andato in giro per una settimana. Dopodiché ricevi l'alert, ti dovresti chiudere dentro e dovresti aspettare che ti facciano un tampone. E lì è il problema più grosso. Perché in assenza di sintomi tu non hai nessuna priorità. Fai presente al medico di base o all'ASL che Immuni ti ha detto che devi fare un tampone? Il medico in buona sostanza molto probabilmente ti dirà fino a quando non hai sintomi resta chiuso in casa. Quindi intanto ti autodenunci e lui ovviamente ti segnala all'ASL. Quindi da quel momento sei in carcere. Poi non è detto che fai il tampone, può essere pure che stai 14 giorni ad aspettare, non sviluppi sintomi, a quel punto avrai scoperto che al 99% era un falso allarme, però intanto tu hai pregiudicato tutta la tua vita, tutto il tuo lavoro, tutta la tua routine per 14 giorni sulla base di una segnalazione astratta. E quindi ecco perché per me Immuni da solo non può funzionare. Beh sì, comunque... Ah, vabbè, Vai. Intanto, prima di Puccio, così la notizia che non c'entra niente. Il presidente del Kosovo, Aci, è stato arrestato e portato in carcere per crimini di guerra. Vabbè. Dai. Beh, è una bella notizia. Attenzione. Dai, il vento comincia a cambiare in più di anche. Attenzione, anche... perché questa è una bella. Mentre noi stiamo ancora ad aspettare il Nevada. Vabbè. Cazzo sarà il Nevada, porca troia. Che poi il Nevada che non nevica mai in Nevada. Cioè. No, c'è stato un amico che ha detto: secondo me il Nevada non esiste. Ha detto: guardate, è come il Molise. Un viaggio di nozze, è proprio Molise. Reale non mi è sembrato. Dicevo, c'ha ragionissima Walter. Io, però, la cosa la guardo da un'altra angolazione. Cioè, Immuni è figlia di un compromesso. Il rispetto delle leggi sulla privacy, Stati Uniti e Europa, quindi le API sviluppate congiuntamente da Google e da Apple per i loro dispositivi, è la necessità di fare contact tracing. Tutto questo, fantastico compromesso che hanno raggiunto, usiamo il Bluetooth, non facciamo il tracciamento della posizione, fa che tutto si poggi sul buon senso di chi la sta utilizzando, che in informatica è un errore gigantesco, perché tu più rendi umano un processo, cioè più c'è necessità di intervento umano, più quel processo informatico diventa fallibile, primo. Siccome si è parlato di esempio di capacità di contact tracing della Corea del Sud, quindi Seoul, non Pyongyang, un paese profondamente democratico, vabbè, pure lì c'è da dire, insomma, vabbè, dai. Vabbè. Sì, più democratico di quello del nord, diciamo così, dai. Più della Cina, esatto. Così. Ha funzionato in questa maniera: l'applicazione sui cellulari è obbligatoria, se non ce l'avete vi portiamo in galera, funziona con il tracciamento tramite GPS tipo a un metro di distanza e io poi sono in grado di vedere polizia se tu che ti ho messo in quarantena sei uscito, se sei rimasto nell'area in cui io ti ho assegnato sei uscito. Se sei uscito vengo e ti faccio culo. Ma se io lascio il cellulare a casa? Quello è il problema. Diciamo che in Cina tutte queste cose per non fare il lockdown, cioè mi sembra ridicolo. Poi hanno fatto lo stesso. Cioè, comunque giustamente Lobby Frontali in chat ci dice che in realtà non è ancora chiara la causa dell'anosmia, quindi suppongo del Avevo letto una roba su Nature un po'. Non è ancora chiara, leggeva proprio ieri un paper. Vabbè, lui è il medico della nostra. Leggevi un papero? Lui leggeva il paper. Dal Piper ci andavamo a ballare il Piper tutti. Tutto questo per dire che il contact tracing fatto in maniera informatica con le app con i cellulari non si sposa con la libertà personale e con la privacy. Semplicemente o butti a mare uno o c'è un'applicazione, un sistema, un'applicazione, perdonatemi, che funziona più o meno a metà, come può essere quello che abbiamo sostanzialmente in tutta Europa e negli Stati Uniti. Secondo me avrebbe funzionato a metà comunque, perché tutti questi sensori prima di tutto non sono così raffinati da discriminare la posizione dell'untore rispetto ai potenziali esposti. E poi ripeto, comunque sia, uno, non mi puoi obbligare ad andare in giro, non c'è una legge che mi obbliga ad andare in giro col cellulare, non è detto che io debba possedere un cellulare compatibile con queste tecnologie, perché c'è da dire che io potrei benissimo dire ho un feature phone, Nokia 3310. Esatto, cioè, ma infatti la soluzione saranno i dati quantici, ragazzi, prima o poi tolchi la fascia. Io sono d'accordo al tatu quantico. A noi ce l'hanno messo il tatu quantico. Ce l'hanno messo. A noi ce l'hanno messo. Perché sì, perché io quando ho fatto il vaccino, praticamente ha messo il tatu quantico. Un bozzo per 3 giorni, quello era il tatu quantico. Quello è il microchip. Secondo me era il medico che gli rodeva un po' il culo, invece di fare l'iniezione tirava le freccette. Mamma mia, guarda, stavo proprio incazzato. Però mi ha messo pure il tatu quantico. Stava incazzato perché c'è pure una situazione con la segretaria che, insomma, vabbè, poi ne parlerò. La segretaria che non vuole il vaccino del Covid. Esatto, vabbè, ma lasciamo perdere, poi ne parleremo in un'altra sede. Se avete il medico con la segretaria anti-Novax. Allora io direi, Michele, il medico persiano, siriano, con la segretaria persiano, Novax. Non veneziano, persiano. Persiano. Non so se avete capito la battuta. Quindi senza tapparella. Persiano, con le costine. Esatto, bravo. E vabbè, non era facile capire questa meravigliosa battuta. Allora, Michele, io farei una cosa. Sì. Facciamo fare un giro finale a loro, così li salutiamo, mandiamo in brano e poi a te facciamo i saluti finali. Okay. Che dici? Ti piace questa cosa? Intanto Biden è andato a parlare con la stampa. Dai. dai, Biden. Biden. Vabbè, ma Biden già lo sa di aver vinto. Tra l'altro, prima ho letto un meme che Greta Thunberg ha fatto a Trump. Mi è piaciuto tantissimo. Dopo indagherò per capire se è reale oppure no. Greta Thunberg, che ricordiamoci, vive dentro una stanza senza lampadine. Quindi c'è una cosa importante. Scusa, Walter. Perché vive dentro la stanza senza lampadine? Io so, quando l'ha intervistato l'altro giorno era tutto buio dentro la stanza. Vabbè, lei fa economia. Economia e commercio. Vabbè, dicevi. Dicevo che Biden in questo momento, quando parla, è solo per punzecchiare Trump e fargli dire cose ancora più gravi e stupide di quelle che ha detto finora. Confermo, perché praticamente dice che ha parlato per un minuto e ha detto soltanto dobbiamo avere pazienza e contare ogni singolo voto. Sì, sì, lo sta provocando. Lo sta provocando. Nel frattempo, però, alla fine Trump è passato dalle parole ai fatti e sta facendo ricorso su ogni singolo stato. Quindi sì, ma due sono stati già rigettati. Ma è una follia, ragazzi. Every vote counts. Allora, facciamo un giro finale, così salutiamo i nostri ospiti, partendo da Gianluca. Gianluca, insomma, questo DCPM ti piace? Non ti piace? L'hai capito? Cosa ti aspetti nelle prossime settimane? E che ne so, io mi aspetto un aumento dei contagi. Ecco, sempre l'ottimismo. Come si diceva prima, anche il fatto di mettere la campagna e soprattutto la campagna in questo caso, no? Zona rossa, dici? Zona gialla, non ha molto senso. Infatti all'inizio io l'avevo vista arancione nelle prime immagini che avevano mandato, poi l'hanno vista gialla. Ma sì, in effetti è un po' strano. Che spiegazione ti puoi essere dato tu? Aspetto, perché poi in realtà De Luca aveva proprio chiesto la chiusura da regione. Da Luca è un mese che chiede la chiusura, figurati, quindi io non lo so sinceramente perché hanno fatto apposta. L'area metropolitana di Napoli è densamente abitata, la maggior parte dei contagi sono lì, quindi non è che dici, posso capire che a Eboli magari non hanno contagi, ma Eboli è lontana nel senso dall'area metropolitana, quindi penso che non ci sono contagi, come dicevamo. Ma tu che sei di quelle zone, ma non so, magari segui meglio di noi, che siamo un po' più sparsi in altre regioni. Ma quello che leggo io è che più che un caso Campania esiste un caso Napoli, quanto al numero di contagi, ma ti risulta come cosa? Come contagi, dici? Sì, sì, cioè che praticamente la stragrande maggioranza dei contagi è lì. Vabbè, ma è un discorso tipo di densità di popolazione. No. Ah, sicuramente, però. Lascia un po' così, perché se vedi altre regioni tipo la Lombardia, dove voglio dire Milano c'ha un numero di contagi che comunque è compatibile con quello delle province vicine, invece la Campania mi sembra che sia più di tre quarti. La Campania parte, ma tu conta che comunque i 4/5 della popolazione campana sta là, nell'area metropolitana di Napoli, che tocca Salerno, tocca Caserta, tocca Avellino, tocca Memà. No, è una battuta. Mamma Nicola mi tocca, tocca a Nicola che mamma non c'è. No, poi comunque la densità abitativa è altissima, nel senso. Sì, in alcune aree, voglio dire, hanno costruito anche laddove nessun'altra civiltà umana avrebbe costruito, insomma, però. Vabbè. Tipo gli Aztechi. No, tipo sotto i vulcani, cioè, nel senso, ma tanto per dirne una, insomma, oppure dove ci sono i crepacci dai quali sgorgano la pila incandescente di lava, però. Vabbè, d'altronde non è che si può pretendere, ma questo fa parte della. Uguale la sauna a casa. Esatto, fa parte della peculiarità, diciamo, insomma, antropologica, come i lombardi hanno i loro difetti, insomma. Non possiamo pretendere che tutto il resto d'Italia non abbia. Meno perché Napoli è in mezzo a tre vulcani, quindi è figa sta cosa. Esatto. Vabbè, lì ci può, non fa poco, insomma. E Puccio, invece, il tuo pensiero finale. Spero basti, ma ho dei serissimi dubbi in questo senso. Penso che, non dico ci facciamo alla vanzina a Natale in lockdown, ma diciamo che la paura ce l'ho. Un po' la sensazione, in effetti. No, oddio. Vabbè, poi cioè, tua moglie sa perfettamente che io su sta cosa ci scherzo sopra, che sono sociale, che non voglio uscire, non voglio vedere le persone, che poi non è vero, per carità. Non è vero proprio, poi niente. No, ma assolutamente. Aspetta che arriva la PlayStation 4, la PlayStation 5, poi sti cazzi. Aspetta che torniamo a vivere e che ti diciamo Puccio, andiamo a fare un viaggio. Tra l'altro ho letto un meme proprio stasera, no, un meme, anzi, in realtà era un commento a uno dei video di Conte dove diceva invece che il bonus per il monopattino e le biciclette potevi dare il bonus PlayStation, vedi che la gente stava tutta a casa. Lockdown. No, tranne quando ho scritto best Pasquetta ever il giorno di Pasquetta quest'anno, insomma. No, in realtà vi devo dire la verità, anche perché io vi dico, vi ho detto, lavoro da casa da marzo, quindi sostanzialmente tolta la mia famiglia, la persona che mi fa il caffè tutte le mattine, l'edicolante, il libraio di Putignano e quelle poche volte che riesco ad andare a Bari, io sostanzialmente non sto vedendo nessuno da marzo, onestamente è una cosa, come sono reso, ma rimbarza proprio, io pure sono segregato in casa, sta iniziando a pesarmi. Ti pesa L'altro giorno mi ha chiamato la mia testimonianza. Non dire cose che potrebbero ripercuotersi. Esatto. Vabbè, ragazzi, io ve lo dico: il giorno che vi siete visti il compleanno di Michela, che noi neanche ci potevamo spostare, vi giuro, ho rosicato tantissimo. Ho detto a Claudia: vorrei stare a Monterotondo. Tanto c'ho la macchina nuova, ibrida, grande. Posso venire. Tra l'altro, dai, appena si finisce, si festeggia. Davvero, diciamo che oggi sarebbe comodo se la macchina più che ibrida fosse invisibile. Quello aiuterebbe. Esatto. Aiuterebbe tanto. Di Wonder così Man. Non te la rigano anche se te la rigano, no, te incazzi di più, però attenzione, vabbè, dai, riusciremo a fare il raduno a San Savino a primavera, se tutto va bene ci proviamo il 25 aprile, insomma, poi vediamo. Bene ragazzi, allora Walter, invece la tua considerazione finale. Io, vabbè, l'ho detto, io sono e sarei stato già da tempo per il lockdown, credo che sia inevitabile come la risalita del mattone, come diceva Roberto Carlino, e che più tempo aspettiamo più sarà lunga poi la fase di lockdown, perché la curva ci metterà molto più tempo a scendere e ci porteremo sulla coscienza più decessi di quelli che avremmo potuto. E oltre a questo, però, ripeto, mi sono dato questa ipotetica spiegazione del fatto che si cerca di portarci al lockdown gradualmente a causa del fatto che questa volta la popolazione non sembra particolarmente disposta e disponibile ad accettarlo bonariamente, quindi a un certo punto ci sveglieremo che eravamo in lockdown da qualche giorno e non ce ne eravamo neanche accorti. Però, ripeto, questo perdere tempo è drammatico perché ci sta portando a numeri a cui non saremmo dovuti arrivare. Questo è il parere di un uomo della strada, sicuramente non certo di un professionista del settore, però insomma, leggere 35.000 casi di positività al giorno, numeri di decessi al giorno che stanno raggiungendo gli stessi apici della fase acutissima della prima ondata, si legge 4,50, insomma non ci fanno piacere. Sappiamo che il punto di rottura è quando si raggiungono richieste di posti letto superiori alle disponibilità, e direi che ci siamo praticamente arrivati, per cui la mia logica è: se chiudevamo 3 settimane fa, forse cominciavamo a scaricare subito la pressione agli ospedali e quantomeno ci evitavamo quel problema. Adesso questo problema tornerà, i medici dovranno tornare a scegliere chi aiutare prima e chi questa è la cosa dopo, peggiore, non aiutare, insomma è tutto molto brutto. E poi capisco che io faccio un lavoro per cui non conta tanto dove sto, quindi e comunque sia in un settore faticoso e complicato a prescindere dal Covid, quindi a me da un punto di vista lavorativo non è cambiato tanto, non navigavo nell'oro prima, non ci navigo adesso, però capisco che per tanti altri invece non è così semplice, il lavoro è subordinato e vincolato al luogo fisico, quindi capisco anche quelle difficoltà. Non accetto invece questo discorso per cui bastano poche settimane di difficoltà a dire sto morendo di fame, perché evidentemente lì c'è una speculazione, e sarebbe il caso a questo punto anche di indagare tutti quelli che oggi chiedono aiuto e dichiarano perdite enormi. Cinicamente dico: benissimo, tu dichiari di aver perso tutte queste cifre, io ti faccio un accertamento fiscale storico degli ultimi 4-5 anni e vediamo. Se quello che dichiari di stare perdendo oggi è molto diverso da quello che dichiaravi in tasse negli anni scorsi, ti faccio un mazzo come un tarallo, perché mi devi spiegare su che base stai lamentando queste perdite, se no altrimenti come fai oggi, come hai fatto fino a mo'. Ecco. Su questa cosa sono assolutamente d'accordo, e anzi io mi auspico in qualche maniera, quando l'emergenza sarà finita, una revisione di questa cosa, per andare a vedere chi ha comunque abusato di questa... Sì, questo potrebbe essere l'occasione, scusa Simone se ti interrompo, per fare un serio giro di vite contro l'evasione fiscale e per mettere in campo strumenti di misurazione e di lotta all'evasione reali. Se non ora, quando? Sono d'accordo, assolutamente al 100%. Bene ragazzi, noi vi salutiamo, così io e Michela poi andiamo a fare la conclusione. Grazie insomma di aver partecipato a questa puntata, così, che serviva un po' per chiacchierare di questo, un po' per testare le nostre nuove attrezzature con la gioia di Michela, ma soprattutto insomma anche per fare un po' un punto della situazione. Poi torneremo a parlarne sicuramente lunedì ad OGM. Allora, lunedì c'è OGM, però non ti dimenticare che domenica ci sarà c'è Mono, tra l'altro, poi spero che ci sarà Lely Angolo con il jingle più bello di tutta Runtime, perché qua stanno facendo a gara a spodestarci sui jingle. Quindi infatti io... tutto ha avuto inizio da lì, dal jingle degli angolo musicale, che una... Capito Gianlu? Cioè, tutte imitazioni. Cioè, esatto. Capisci? Esatto. Qua bisogna farli neri, cioè, veramente. Quindi, e con le riangolo che è veramente... Guarda, se mi dai due secondi lo faccio sentire. Perché, insomma... Merita. Parlate. No, vabbè, Lely Angolo è una rubrica di cui io sono molto, molto, molto, molto, molto orgogliosa, e quindi ringrazio Gianluca per la fiducia che mi ha dato, insomma, e per il contributo prezioso. Grazie a te per la fiducia, il programma è tuo. Per il contributo prezioso nella scorsa stagione, quindi spero che ci sarà anche domenica. E partiremo con Lockdown, quindi torneremo con Mono sicuramente. Poi non so se ci saranno altri programmi nei prossimi giorni oltre a OGM. Non so, sai, mi sa che l'ho cancellata oggi la sigla. Ha cancellato la sigla. Per sbaglio, cioè, per sbaglio. Questo è sabotaggio. Questo si chiama sabotaggio. Sabotaggio come dicono. Aspettate. Sabotaggio con 3B, mi raccomando. Con 3B, esatto. Vabbè, dai. Vabbè, la riascolteremo un'altra volta. E quindi ricordatevi di restare a casa domenica, e dopo le 18 ci saremo noi. Anche sabato e lunedì. Sì, cioè state a casa, soprattutto la sera, perché lo state dovete a casa soprattutto. Lo dovete fare. E detto questo, va bene, quindi ringraziamo i nostri amici, noi continuiamo, ci sentiamo un brano adesso, che è un brano che avete già sentito diverse volte, ma insomma ve lo facciamo risentire perché noi ci teniamo, insomma, che il nostro amico Claudio Camilli, che con la Pagliata Funk ci ha regalato questo brano. Arriverà a Natale una sorpresa, è pronta una sorpresa. Attenzione, è una sorpresa, e ci sentiamo fra 3 minuti, 2 minuti, 2 minuti e mezzo minuto, non so, insomma, ciao. Cerottini di corde, reti d'eletto, c'ha pure scarpe per bassotto e spezie per risotto, parenti sotto sfrato. E Bangla c'ha tutto, matite, antenne, radio, colle, antiratto, c'ha l'adesivi per cruscotto, calzoni con disfatto, i remi per canotto. Ma tu non ci stai più e io non compro niente, Erbangla senza te un po' me si sorprende, perché non compro più il dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, Erbangla manco sa che mai lasciato come infesso, col cuore dentro a un fosso, ma camperò lo stesso. L'amore c'ha diritto di recesso. Oh, oh, oh, oh. Erbangla c'ha tutto, saponi, spugne, giochi, dama e filetto, c'ha pure per tetto, a merce col difetto, c'è un sogno nel cassetto. Erbangla c'ha tutto, cuffiette stereo, vasi, luci, antifurto, c'ha pure il frigo mezzo russo, si scala sopra e sotto. E prima di salutarci, io voglio, non so se l'ascolterà, però voglio dare un grandissimo abbraccio al grande Claudione che abbiamo sentito nella voce, perché praticamente prima del lockdown, cioè, è arrivato come fulmine, però ci ha avuto la sua grande occasione, finalmente hanno capito chi cazzo è Claudione. E Claudio Cammilli ha partecipato come nel cast dei Predatori, il film di Pietro Castellitto, dell'Arca Perduta, che no, Predatori e basta, il film di Pietro Castellitto che ha vinto al Festival di Venezia come migliore sceneggiatura. E noi non abbiamo potuto vedere perché abbiamo scelto di non andare al cinema in quei giorni perché non ce la sentivamo, e abbiamo fatto bene, detto, diciamo, anche io gliel'ho detto a Claudio e Claudio spero, ci ha mandato la copia pirata. No, spero di poterlo vedere quanto prima perché sono molto curiosa, ma sono anche molto orgogliosa perché comunque c'è, cioè, sto ragazzino un po' rompicoglioni che era lui, comunque è diventato grande, un grande attore, è secondo me un grande attore, ragazzino che menava la gente è una grande persona. No, è forte Claudio, veramente. Io l'ho conosciuto molto dopo, perché l'ho conosciuto quando, insomma, quando sono venuto qui a Monterotondo, e con me è sempre stata una brava persona, sempre gentile, sempre disponibile, insomma. E lo riporteremo quando ovviamente passerà un po' tutto sto casino, come è già stato una volta ad OGM, lo riporteremo ad OGM, lo portiamo qua, lo portiamo, esatto, tra noi. Esatto, va bene ragazzi, allora ricordatevi, domenica c'è Mono con la nuova strumentazione, spacca, vedrete che sentirete proprio i botti veri. Adesso devo andare a rintracciare la sigla dell'Angolo, che l'ho vista proprio oggi e non vorrei averla cancellata, insomma, sarebbe un po' una cosa brutta. E invece ricordatevi che domenica mattina alle 9 esce il esce la, vabbè, a parte Techno Pills alle 6, alle 9 esce la seconda puntata, anzi sarebbe la prima puntata ufficiale di Buongiorno un Cazzo, che è il mio podcast, e alla sera alle 21 in diretta come sempre OGM con me, Walter, Marco, Lobby Frontali e Puccio Carmine. E detto questo, io vi saluto. Michela, dai, è stata carina sta trasmissione. È stata bella, grazie a tutti i ragazzi. D'altronde siamo in zona rossa, o zona gialla, arancione, quello che è. Siamo giallo-rossa, zona giallo-rossa. Giallo-rossa come il cuore mio! Esatto. Come il cuore anche del fantastico Gigione che ci ha lasciato qualche giorno fa. E che oggi è stato ricordato al Globe Theater. Tra l'altro, piccolo ricordo, piccola radio cazzi miei, il giorno in cui il Globe Theater è aperto e c'era quella folla assurda e quelle file per cui praticamente si passava, scusate, si andava sotto l'acqua a cercare di entrare e vedere lo spettacolo, il grande Gigi era su quel palco e eravamo a casa sua, io mi sono sentita a casa di Gigi e niente, mi mancherà tantissimo, mi dispiace veramente tantissimo che ci ha lasciato, quindi è dura da accettare, però lo salutiamo con un grande cuore. Bene, sì, lo salutiamo Gigi Proietti. Oggi tra l'altro c'è stato un bellissimo intervento, un bellissimo ricordo da parte dell'ultimo grande sindaco che Roma ha avuto, sì, nella sua più recente storia, che è Walter Veltroni. È grazie a lui che si è potuto costruire il Globo. Bene, detto questo, vi abbiamo detto gli appuntamenti: Mono domenica, lunedì Techno Pills, Buongiorno un Cazzo e la sera alle 21 in diretta OGM. Ci sentiamo la prossima opportunità, perché appunto, come abbiamo detto, ora che si sta in restrizioni, Runtime Radio piano piano ritornerà a fare le live come quando c'è stato il lockdown. Quindi paura, è il momento in cui dovete stare vicino a Runtime, perché Runtime sarà vicino a voi. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti e continuiamo e chiudiamo appunto con la coda della canzone di Claudio Cammilli e la Pagliata Funk. Ciao Michela. Ciao a tutti. Perché non compro più il dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, e il bangla manco sa che mai lasciato come infesso, col cuore dentro un fosso, ma camperò lo stesso, l'amore già diritto del recesso. sapere.